Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non si può dire che questo sia un lunedì come gli altri, non solo perché sono arrivati ulteriori verdetti dopo quello che aveva visto l'Inter campione d'Italia, ma anche per le modalità attraverso cui questi verdetti, per esempio quello che sancisce di fatto la retrocessione del Torino, dicevo, le modalità attraverso cui questi verdetti sono arrivati, oppure dove verdetti non ci sono stati, perché il Milan ha tuttora la possibilità di giocarsi il terzo, non più il secondo, ma il terzo dei tre posti utili per entrare direttamente in Coppa Campioni. Beh, insomma, le modalità curiose, per usare un eufemismo, a San Siro davvero ieri non sono mancate. Ne parliamo insieme oggi, come sempre, con i vostri interventi all'800 24 00 24. Ci sarà anche un collegamento con il Giro d'Italia, che vive oggi una delle due tappe decisive di questa settimana finale. Cominciamo comunque con la voce del protagonista assoluto di ieri, che è stato senza dubbio Paolo Maldini. Ah beh, insomma, qualcosa ho dato, quindi non contento, insomma, peccato per la partita. Sto bene, dico peccato per la partita, adesso se me la giocherò l'ultima a Firenze. Sono orgoglioso di non essere uno di loro. E questa è la dedica finale a chi gli ha dedicato quel po' di trattamento che ha già fatto il giro del mondo. Scrivono alcuni ascoltatori, e tra l'altro abbiamo anche testimonianze dirette qua in studio da parte di milanisti fedeli, che in realtà non tutto lo stadio, anzi solo una parte dello stadio si è accorto di questa contestazione, nel senso che per l'intera partita sono andati avanti gli applausi, gli olè, i festeggiamenti a Maldini, e nella circostanza del giro d'onore finale non tutti, anzi in pochi, si sono accorti di quello che stava accadendo. Ma è anche vero che è un po' il discorso televisivo, cioè se ci sono 15 occhi di telecamera o 25 magari puntate su un soggetto, si scoprono cose che l'occhio normale in una tribuna può anche non vedere, o sul campo se parliamo di arbitro, e poi ovviamente l'amplificazione diventa inevitabile, essendo un fatto così naturale, un fatto così incredibile. E cioè, mentre il mondo intero rende omaggio a uno dei più grandi campioni di tutti i tempi della storia del calcio italiano, c'è una frangia invece, nemmeno poi così piccola come è stata dipinta, c'è una frangia che riserva i suoi anatemi finali a Maldini e rovina la festa a Maldini, ma anche al Milan, direi, perché la brutta figura di ieri non è soltanto di quella parte di curva, è una brutta figura della società, perché è chiaro che almeno a me è abbastanza chiaro, insomma, credo non solo a me, che se c'è una frangia così robusta che ha così ampi margini di manovra in una curva, beh, difficilmente sono cani del tutto sciolti, a parer mio perlomeno. Cominciamo dall'omaggio che a Maldini ha rivolto una parte significativa del calcio italiano, sentiamone qualcuno. Una goccia d'acqua in un oceano pieno di affetto, pieno di passione, quindi insignificante. Non lo so cosa sta succedendo, rimane il fatto che Maldini ha testimoniato il fatto che c'è stato grande affetto intorno a lui, una piccola minoranza ha contestato certi suoi atteggiamenti, ma come ho detto è un particolare insignificante nei confronti di una giornata che lui ricorderà per tutta la vita. Soprattutto erano sorpresi i miei calciatori quando sono rientrati dentro lo spogliatoio per il comportamento avuto verso questo grandissimo uomo e grandissimo calciatore. E quelli che vogliono offendere, quelli che vogliono spaccare, quelli che vogliono picchiare, se stanno a casa ci fanno un favore, perché sono quelli che non amano questo sport. Io ho avuto modo di mandare un SMS a Paolo e gli ho scritto che la mia gioia, la gioia di questo momento era pari soltanto alla tristezza del suo addio al calcio. Ha smesso un grande giocatore, un grande capitano, ritengo il più forte difensore al mondo sicuramente degli ultimi 20 anni. Al di là di questo non credo che la festa o la carriera di Maldini si debba giudicare da questo episodio, quindi questo è assolutamente ininfluente, credo che rimanga quello che Paolo ha fatto in questa società e nella sua carriera, che è qualcosa di assolutamente grandioso. È un numero uno per eccellenza sotto tutti gli aspetti. Ci sono giocatori, ci sono grandi giocatori, ci sono fuori classe, poi ci sono giocatori come lui che riescono ad andare oltre, quindi per me è stato un onore aver giocato con lui in nazionale e aver avuto tutti questi anni di scontri insieme. inutile, insomma, le voci le avete riconosciute, sono troppo celebri, perlomeno per chi pratica il mondo del pallone, per aver bisogno di didascalie. Mi è piaciuto soprattutto quello che ha detto Spalletti, stessero a casa ci farebbero un piacere a tutti noi che amiamo o che pratichiamo il pallone, ha detto Spalletti. Sì, il problema è proprio quello, è che a casa non ci stanno, perché sennò la visibilità doveva finire. Scrive uno di loro, immagino sia pure di buona volontà, scrive questo proprio in tempo reale, è apparso sul display 20 secondi fa. Non voglio essere frainteso, dico che non si può discutere il Maldini calciatore ineguagliabile, forse nemmeno il Maldini uomo, ma un po' meno il capitano, perché non si è mai esposto quando in questi 25 anni ci sono stati problemi tra società e tifoseria. È stato un capitano un po' fashion, assente e distaccato verso la sua gente, quindi si è sempre comportato come un galantuomo, mi par di ricavare, no? Si è sempre comportato come si dovrebbe comportare un capitano vero, oppure questo messaggio, ripeto, di grande civiltà, e che parla di problemi tra società e tifoseria, sottende per esempio che non si è mai messo in mezzo quando ci volevano più biglietti per gli ultra, potrebbe essere questa per esempio una chiave di lettura. Arriviamo all'altro giallo di giornata, che è quello che è andato in scena a Torino. Prima le voci di Gasperini e Camolese, poi degli aggiornamenti di giornata. Gasperini. La miccia è stata che il Genoa ha vinto una partita, forse doveva venire a perdere per forza, e quindi questo ha generato come se la retrocessione del Torino sia dovuta alla partita di oggi o alla sconfitta di oggi. Queste è un tipo di mentalità, di cultura che molto spesso si vede nei finali di campionato, no? O si vedono cose tranquille o se no, quando ci sono partite vere, c'è il rischio che poi succeda questo alla fine. È una brutta immagine, è un brutto segnale, no? Forse sarebbe meglio approfondirla un po' di più. E sicuramente avevamo in ballo il quarto, il quinto, il sesto posto, e questo poteva essere fattibile qualunque di queste situazioni. E fermo restando che poi, anche non fosse stato così, magari avremmo avuto motivazioni minori, però insomma dove sta scritto, parliamo sempre parliamo in modo ipocrita, dai, in modo ipocrita continuamente. Comunque noi abbiamo fatto, siamo veramente, ma io lo dico perché poi sono di Torino, siamo veramente dispiaciuti. E questo era Gasperini, che stamane ha ribadito questa linea, così come Cairo invece ha ribadito la sua. Ci sono stati in un programma radiofonico non meglio specificato, me lo scrive un ascoltatore, Max da Milano in questo momento, si sono presi a pugni al telefono, scrive questo ascoltatore, con accuse pesantissime. Sentiamo Camolese. Io mi ricordo Tiago Motta, che probabilmente ha sentito qualche cosa della nostra partita, che ha fatto segno, ha zittito i nostri giocatori della panchina, e questo comunque i giocatori devono sempre evitare di fare gesti in ogni caso, anche se magari giocano, hanno 30 punti più degli avversari, proprio per il rispetto, per le situazioni diverse che in campo stavano vivendo dei professionisti. Quindi diciamo che quel gesto se lo poteva tranquillamente risparmiare, come tranquillamente si poteva risparmiare tutto quello che si è visto dopo, come tutte le altre partite che ho giocato. Cioè, noi dobbiamo cercare di fare il massimo sono sempre la ricerca dei tre punti, e onorare la maglia fino in fondo e dare tutto quello che abbiamo fino in fondo. Questo è quello che ho chiesto quando sono arrivato 8 partite fa, e quello che chiederò ai ragazzi questa settimana. E questo era il punto di vista di Camolese. Poi stamane Cairo invece ha rincarato pesantemente la dose. Vedremo se ci sarà tempo dopo per dar conto di queste ulteriori dichiarazioni, certamente non distensive, anche se oggettivamente non è facile distendersi a poche ore da una retrocessione, di fatto, anche se non ancora ratificata, se non ancora formalizzata. Io credo che a Torino resti una speranza molto, molto tenue, visto che è a pari punti col Bologna, ma è sotto nel confronto diretto, quindi in realtà deve finire davanti al Bologna, non gli basta finir pari. La speranza molto tenue è quella di andare a vincere a Roma contro una squadra che ieri si è ritrovata, e con una squadra probabilmente decimata dalle squalifiche che il giudice sportivo inevitabilmente infliggerà. L'altra parte della speranza è che il Catania non il Bologna non batta il Catania, e questo insomma mi sembra non facilissimo, ma nel calcio tutto può accadere. Dicevo che in realtà una speranziella sola, che è questa: il calcio ogni tanto si diverte a punire chi festeggia troppo presto, e non c'è dubbio che ieri il Bologna abbia robustamente festeggiato questo pareggio annunciato di Verona. Questo potrebbe aver irritato, come dire, le stelle, la Deu Palla, come l'aveva battezzata Gianni Brera. Due messaggi molto belli, due mail molto belle. Gaetano Righini, Reggio Emilia, scrive: i tifosi del Newcastle piangono in tribuna dopo essere retrocessi per un autogol contro una squadra che non si giocava niente. I giocatori del Torino fanno una rissa in campo perché una squadra che si giocava la Champions non li ha lasciati vincere. Questa è la differenza. Già, Gaetano. E mentre invece Tommaso Caretti scrive: credevo di aver visto praticamente tutto nel mondo del calcio, ma mi mancavano ancora due cose. La prima è vedere insultato una colonna del calcio mondiale come Paolo Maldini. La seconda è stata vedere di persona chiedere l'autografo, vedere gente che chiedeva l'autografo a Fabio Caressa scansando il campione del mondo Bergomi come se fosse una semplice spalla televisiva. Questa non è male davvero. Cesare Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto grazie, perché io l'ascolto tutti i giorni, mi fa passare un'ora veramente, visto che lavoro in macchina, quindi grazie. Volevo dire, io ho giocato a calcio a livello dilettantistico per diversi anni e sono figlio di calciatori, quindi ho il DNA del calcio stampato bene nei miei microsomi, e dico che ormai il calcio non lo seguo più come prima, nel senso che ho smesso da tempo, perché purtroppo, mi dispiace dirlo, ma ormai l'inciviltà nel calcio ha preso piede in una maniera incredibile, e ieri credo che ci sia stato il festival dell'inciviltà, perché riuscire nella stessa giornata a scatenare una rissa solo perché l'avversario ha avuto la colpa di aver vinto una partita e di essersela giocata, fare la solita giornata di razzismo a Verona, e mi dispiace molto per il Chievo. E a Cagliari anche. No, momento, mi dispiace per il Chievo. Chievo non c'entra nulla, erano i tifosi del Bologna. Certo. Ecco. Certo. Sì, e a Cagliari anche. E a Cagliari riuscire anche nell'impresa, dopo già queste due perle, e poi aggiungo probabilmente il presidente Cairo e il giocatore del Torino, forse a Napoli non ci sono andati, no? Nel senso che... No, a Napoli hanno giocato... Ascolti, sta diventando un po' lungo il suo intervento, Cesare, mi scusi, perché ci sono tantissimi ascoltatori in attesa. A Napoli il Torino ha vinto la sua regolare partita avendo più motivazioni del Napoli. Il Genoa ieri si è impegnato sino alla fine, non tanto per voler infierire sul Torino, chi ha un minimo di pratica di calcio credo che l'abbia capito ieri in tempo reale, semplicemente per via del gol di Tiribocchi a Lecce, perché il gol di Tiribocchi a Lecce stava dando al Genoa la possibilità di rientrare miracolosamente in Champions League. Poi è arrivato il pareggio finale di Jorgensen, che è stato tra l'altro di una casualità folle, perché poi i famosi cultori, no, del sospetto, o comunque di quelli che hanno visto i film prima, diranno che, per carità, la Fiorentina alla fine avrebbe pareggiato comunque. Ha pareggiato con una botta di fortuna, impressionante, perché il pallone sbatte su uno stranissimo rimpallo in area e permette a Jorgensen di appoggiarlo a porta vuota in maniera assolutamente fortuita e casuale, e credo che quel gol simboleggi la retrocessione dell'unica delle quattro squadre che erano in lizza per la salvezza che davvero non meritava di retrocedere, perché secondo me se c'era una squadra di queste quattro che doveva restare in Serie A era proprio il Lecce, è stata quella a cui tutto è girato più storto durante l'anno e a cui e che certamente può imputare anche a molte decisioni arbitrali univoche una parte della sua retrocessione, altro che le congiure invocate da altri. Torniamo in onda con molti messaggi, con molti interventi, con molte voci da farvi ascoltare, molte notizie anche di giornata. Beh, la principale, se vogliamo proiettarci un po' sull'immediato futuro, è che sarà l'arbitro svizzero Massimo Busacca, ticinese, a dirigere la finale di Coppa Campioni dopo domani sera a Roma. Busacca ha 40 anni, è internazionale da 10, ha diretto finora 77 partite internazionali, 32 nella sola Champions, di cui 6 in questa stagione. Tutta la quaterna, la terna più il quarto uomo, insomma, o quaterna, come vi pare, è tutta elvetica, e ci sono altri due ticinesi come Massimo Busacca. Francesco, provincia di Salerno, buongiorno. Francesco, evidentemente la linea è saltata. Mauro, provincia di Padova. Buongiorno Garanzini. Di che? Niente, volevo congratularmi con lei per il libro che ha presentato qui a Padova la settimana scorsa. Se sapevo che era in queste zone, le inviavo una mail per venirmi a trovare, visto che faccio il ristoratore. Ci sarà una prossima occasione, allora. Così si potrà approfondire qualche dettaglio che così in trasmissione non si può. Volevo chiederle questo. Allora, come si può contestare una persona come Maldini che, a dispetto di tanti giocatori, dovrebbero prendere come esempio sia come giocatore e sia come uomo? La prima domanda. La seconda domanda che le volevo porre è questa. La Juventus di 2 mesi e mezzo fa alla Juventus vista ieri, che cosa è cambiato? Perché mi sembra che Ferrara non possa avere la bacchetta magica nel giro di una settimana, stravolge tutto quanto. Ma cosa vuole che sia cambiato, Mauro? È cambiato che il Siena intanto ieri era in vacanza, no? E dopo una partenza così con un'azione pericolosa in cui tra l'altro De Ceglie ha avuto un grosso sconto arbitrale, lì probabilmente la partita girava, insomma il Siena le famose motivazioni le aveva finite, faceva un caldo cane e c'era qualcuno della Juventus che voleva dimostrare di essere ancora vivo. Stranamente non gli riusciva di dimostrarlo negli ultimi tempi di Ranieri, perché sa com'è, certe volte con uno ti riesce e con l'altro no, no? Fermiamoci lì, per carità di patria, direi, soprattutto nei confronti di giocatori di grande nome. Facciamone un paio, se vuole, di questi nomi, giocano all'attacco e probabilmente ieri, per l'appunto, facciamo che anche loro avevano più motivazioni di quante non ne avessero nel recente passato, e così tutto è più semplice, tranquillo, e tutti sono più contenti. Giorgio, chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. A me piaceva sottolineare l'importanza per il quarto anno consecutivo del fatto che la mia Fiorentina sia entrata fra le prime 4 squadre. Comincia a diventare una costante, cosa che nei tempi passati purtroppo per noi non succedeva, e quest'anno secondo me è anche più importante degli anni scorsi, perché è stato un anno dove vi sono stati alcuni problemi, la Champions League, il preliminare, che si sa quanta energia prosciuga, e l'assenza pressoché continua di Mutu, e quindi secondo me è un ulteriore passettino in avanti fatto dalla Fiorentina. Velocemente per quanto riguarda Maldini. Velocemente, sì, per quanto riguarda Maldini, sappia Maldini che troverà domenica quello che non ha trovato ieri, 48.000 persone a Firenze, me compreso, che in piedi alla fine della partita gli tributeranno il giusto applauso, seppure da avversario. Questo è molto bello, questo credo che sia giusto da parte dei fiorentini. Credo che Maldini in questo momento lo otterrebbe in qualsiasi parte del mondo, San Siro compresa, con l'eccezione di quel pezzo di curva. Valentino, provincia di Bergamo. Grazie, buona giornata. Dica. Cioè, io volevo dire due cose molto veloci. La prima, quello di Maldini, credo che le TV hanno dato una mano a esagerare un po' le cose. Cioè, lui ha fatto un gesto sotto. Nelle TV ne hanno parlate veramente. Cioè, che abbiano sbagliato, se si continua Valentino, mi scusi, ma secondo, io non so se lei, evidentemente il giornalista non l'ha mai fatto, e questo è un suo merito, non è una sua colpa, sia ben chiaro, però secondo lei, così proprio solo per ripassare i fondamentali del giornalismo, secondo lei la notizia è che uno come Maldini viene applaudito o viene fischiato? Mi dica solo questo. Viene applaudito. Viene applaudito. Lei al contrario, cioè, se un monumento come Maldini, davanti a cui si inchina tutto il mondo calcistico e non, anche per la sua eleganza e la sua educazione, viene applaudito, siamo nella norma e possiamo anche evitare di mandare in onda dei servizi di cronaca. Ma se questo campione viene fischiato o viene insultato attraverso gli striscioni, questa è la notizia. E se lui si imbufalisce al punto, giustamente al punto, da interrompere la corsa verso la curva e da dare uno strattoncino non così leggero al signor Leonardo, e qui ci sono due interpretazioni: una, perché Ecco, lo sto rivedendo in questo momento. Uno, perché in quel momento è così arrabbiato che non c'è nessuno che lo possa calmare, quindi non Leonardo e non chiunque altro. L'altra versione è che è molto più credibile, è che Maldini fa parte della vecchia guardia ed è molto legato ad Ancelotti e non gli piace molto questo cambio societario, no? Quindi che proprio Leonardo, cioè, tutto questo secondo lei non vale cioè è amplificare e dare risalto agli ultra? Assolutamente no. Più risalto diamo a questi dementi e più chissà che non nasca un po' alla volta e non si radichi sempre di più la contro reazione da parte delle persone, da parte della stragrande maggioranza, che riesca finalmente ad espellere senza, lasciando stare i paragoni, ma insomma ad espellere questo pus, no? che si forma ogni tanto anche nei migliori e nei più sani degli organismi. Massimo, provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno dottor Garantini. Volevo lanciare un sasso nello stagno, voglio dire, in riferimento agli episodi che sono successi ieri a Torino. Io vorrei che mi fosse spiegata per quale motivo, considerato che è consuetudine ormai che ogni fine campionato qualcuno ha sempre da ridire qualche cosa sulla lealtà o meno sportiva di questo o quell'altro, voglio dire. Vorrei sapere, per evitare, non si eviterebbero tutti i problemi e le incomprensioni, ma una buona parte sì, per quale motivo non mettono in atto i play-out? Così come i playoff, allargare un po' la forbice delle squadre coinvolte nell'una e nell'altra, voglio dire, e dare la possibilità a tutti di giocarsela da soli, senza aspettare che questo o quello si impegni o meno nell'ultimo, nella penultima di campionato, cioè ognuno è responsabile quindi, del proprio destino. È una buonissima idea questa, secondo me. Mi dica una cosa, così il Catania, faccio per dire, il Catania e il Siena, che hanno fatto un magnifico campionato superiore alle attese e che passo dopo passo si sono guadagnati onestamente la loro salvezza meritata, devono invece giocarsela con squadre che per tutto l'anno rispetto a loro hanno giocato meno bene, hanno fatto meno punti. Ma mi dice perché? Ma le lasci al basket queste cose qua? Le lasci al basket, dove hanno bisogno di spettacolo ad ogni costo, perché sennò le persone... come dire, interessate sono un po' meno che quelle del calcio, o no? Se mi consente, vorrei dire una certo cosa. Che non, dire, non credo che ci sia una grossa differenza tra il basket e il calcio. Ah, no, no. È un fatto di principio, vale per l'uno e per l'altro, voglio dire. Cioè, le squadre partirebbero tutte con lo stesso tipo di presupposto. Non ci sarebbero preclusioni per uno o per un altro, oppure favoreggiamenti per uno e per l'altro, voglio dire, si parte alla pari. Ma perché secondo lei non ci sarebbero invece non succederebbero questi fatti qua nella partita decisiva per essere ammessi ai playoff o ai playout? Perché prima nei playoff e ai playout ci sono le regular season, non succederebbero, ma comunque. E allora? Molte di queste discussioni sarebbero eliminate, voglio dire, perché poi alla fine ognuno è sempre custode del proprio destino, voglio dire. Certo. Comunque se la potrebbe giocare nei play-out o nei play-off, voglio dire. Il comportamento leale o meno di uno o dell'altra squadra che non ha più niente da chiedere a questo campionato, lascio il tempo che trovo, voglio dire. Ieri il Genoa ha fatto una partita così come per tutto l'arco del campionato. Non ha tolto, non ha messo nulla di più di quello. Ma che arco del campionato, ma la prego. Ma il Genoa secondo lei ieri ha giocato come nell'arco del campionato? Ma lei lo sa quanti falli ha commesso il Genoa nell'arco del campionato e quanto era il tasso dei suoi ammoniti in una partita media? Ma perché dobbiamo parlare ad ogni costo senza essere documentati? È solo per suggestioni o solo per... Il Genoa ieri ha fatto 18 falli in tutta la partita. 18 falli non li fa nemmeno nella partitella del giovedì, per difetto, no? Nel senso che in genere commette molti di più. Ha avuto un solo ammonito, che è Juric, ma è stato ammonito per comportamento non regolamentare, non per gioco scorretto. Il Torino, quando il Genoa è passato in vantaggio, ha sempre pareggiato nel giro di, mi dica lei quanti minuti. E nel finale di partita io ho visto dei contropiedi in cui il Torino ha avuto almeno tre volte il match ball. Le domando, considerando che il Genoa ha 30 punti in classifica più del Torino, secondo lei ieri il Genoa ha giocato alla morte sul campo del Torino? Se vuol dirmi questo, allora ha stravinto. Andrea da Bologna, buongiorno. Buongiorno, volevo mettere in evidenza il discorso, l'atteggiamento di Farina in Chievo Bologna, quando ha sentito i bubù su Luciano e ha fatto far l'appello in tribuna immediatamente hanno finito di fare i bu. Bravissimo, vuol dire che Farina vuol dire che Farina ha imparato la lezione di Torino, perché era stato lui l'arbitro di Juventus-Inter, era stato lui anche ad avere una piccola responsabilità, comunque le responsabilità erano di altri, ma una piccola responsabilità anche sua nel non far interrompere quella partita, nel non prendere provvedimenti comunque per far cessare quello scempio. Ieri si è ricordato della lezione, nel frattempo gliel'hanno anche a lui come a tutti gli altri ripassata da un punto di vista regolamentare, è stato molto bravo e ha applicato questo. Non ha fatto lo stesso un arbitro debuttante a Cagliari, è stato un vero peccato, perché i bu a Vieira e gli insulti a Ibrahimovic, sempre di stampo razziale, si sono, sono continuati a lungo nell'indifferenza più assoluta, il che significa che bene da una parte, ma dall'altra parte di strada da fare ce n'è ancora molta. A San Siro sono apparsi anche vari striscioni che contestavano in modo esplicito il presidente del Milan, scrive Stefano da Udine, e lo invitavano ad andarsene. Forse di questo non si è detto molto, ma non si è detto molto perché, perlomeno nel mio caso personale, perché sinceramente quello che dicono o scrivono i tifosi delle curve mi lascia discretamente freddo. Io credo che semmai parlasse l'espressione del presidente stesso, inquadrato a ripetizione in tribuna, e credo che la parte più amara però del pomeriggio di ieri per quanto riguarda Berlusconi non sia stata questa, perlomeno per chi vive il calcio e non dà spazio, ripeto, alle alzate di ingegno degli ultra. È stato quando invece all'inizio ha liquidato con una certa brutalità ha sorvolato, ha glissato sul nome di Ancelotti, ma insomma lasciando intendere prima ancora della partita che era l'ultima di Maldini, ma era l'ultima anche di Ancelotti, e su questo credo che si possa discutere, e si potrebbe volendo aprire un dibattito. Ci sono molti ascoltatori collegati, ma prima c'è l'appuntamento col Giro d'Italia, la sigla. Voci dal Giro. È una tappa chiave quella in programma oggi, con l'arrivo a Montepetrano, perché credo che questa, insieme a quella del Blockhaus tra un paio di giorni, sarà quella che deciderà la classifica finale del Giro, a meno poi di un ultimo appello nella cronometro finale, ma forse troppo breve per poter incidere davvero, soprattutto se tra oggi e dopodomani si creassero i distacchi che è anche lecito aspettarsi con le difficoltà del percorso e con questo caldo supplementare. Ci presenta questa tappa che ormai è arrivata a un paio d'ore, poco più dall'arrivo, ce la presenta Piero Augusto Stagi. La tappa che può decidere a tutti gli effetti questo Giro d'Italia, perché sul Blockhaus e sul Vesuvio si potrà semplicemente aggiustare una situazione o favorevole o lievemente compromessa. La tappa per, diciamo, sistemare le cose è quella di oggi. Ci sono 5.500 metri di dislivello, non c'è un metro di pianura, mancano, diciamo, solamente le altitudini, non si va oltre i 2.000 metri, quindi questo è un limite, ma non sono le Dolomiti, lo sapevamo, ma è sicuramente il tappone di questo Giro d'Italia. Ieri Ivan Basso ha dato dimostrazione di forza, ha dimostrato ancora una volta, se ce n'era bisogno, che in salita è il più forte, che forse con salite più lunghe, superiore ai 14-15 km, avrebbe potuto fare la differenza. Oggi ha una tappa dove può veramente o saltare per aria o rientrare a tutti gli effetti nei giochi di questo Giro d'Italia. Mi aspetto che perlomeno oggi i vari Di Luca e i vari Leipheimer corrano per vincere a loro volta il Giro d'Italia e non per portare Denis Menchov in una sorta di marcia trionfale sui Fori Imperiali a Roma. Ieri è stato quasi scandaloso, tecnicamente hanno sbagliato, e oggi invece mi attendo che facciano la loro corsa, che rischino, che osino. E invece se correranno come ieri, correranno per il piazzamento, e spesso chi corre per il piazzamento, per un secondo o un terzo posto, spesso perde tutto. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere Transit Van Turbo Diesel Common Rail a 10.500 euro. Torniamo con i vostri interventi sul campionato. Andrea Prato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. In realtà l'intervento non è per il campionato, ma per la finale di Champions. Uh-huh. Senta, volevo un suo parere, un suo pronostico su chi la vince e perché. Prestino, sinceramente non ci ho fatto mente locale, c'è tempo, cioè è lunedì, è una grande partita, ma insomma io la giocano alle 8:15 direi di mercoledì sera, entrerò in partita verso le 8:44, sono abituato così proprio da sempre, non vedo perché stravolgere le abitudini. A naso le posso dire che mi sembra difficile che il Barcellona riesca, difficile che non vuol dire impossibile, che il Barcellona riesca a trovare un assetto difensivo ragionevole, perché gli mancano tre pedine, non tre su quattro perché non tutti sono titolari. Marquez per esempio andava e veniva, però insomma giocare senza, non poter fare a meno diciamo dei due esterni e in più di Marquez credo che sia un problema. Se ci aggiungiamo che Iniesta e Henry in ogni caso non saranno al top della condizione, boh, insomma io penso che questo potrebbe far preferire il Manchester, ma ripeto, 48 ore e con tutto il tempo, e anzi l'anteprima, già che ci siamo, di uno speciale con cui noi seguiremo questa finale Coppa Campioni mercoledì sera dalle 22 alle 24 qui da questi microfoni. Antonio, provincia di Pisa, buongiorno. Sono da Monsummano. Monsummano, dica, buongiorno. È in provincia di Pistoia. Senta, complimenti anzitutto per la trasmissione e vorrei accodarmi a tutti coloro che hanno condannato ovviamente l'atteggiamento pessimo della curva ieri a San Siro verso nei confronti di Maldini. Io da tifoso interista non potrei viverla nei confronti di uno Zanetti che lascia il calcio, quindi assolutamente da condannare una cosa del genere, soprattutto per chi ha dato tanto. L'altro argomento segue l'atteggiamento che il presidente Cairo del Torino ha avuto, cioè nelle dichiarazioni, un richiamo alla sportività e alla serietà sportiva nei confronti della Roma, quando ieri è andato il peggio del peggio in campo. Quindi prima di parlare, le stesse istituzioni del calcio dovrebbero pensarci almeno, contare fino a 10. Sì, ammesso e non concesso che Cairo faccia parte delle istituzioni del calcio. Cairo è un uomo di parte, come lo sono tutti, come lo sono la signora Menarini, come lo è Papadopoulo, come lo sono tanti che insomma ieri e nei giorni precedenti, e mi creda anche nei prossimi, daranno lo spettacolo che si dà sempre in questi finali di stagione. Non c'è assolutamente nulla di nuovo, poi ogni tanto c'è qualcuno che esagera. Per esempio leggo una dichiarazione stamane di Cairo che dice: è stato un finale che non condivido, ma le provocazioni di Thiago Motta, l'atteggiamento arrogante mostrato e lo stesso Oliveira che ha dato un pugno a Colombo hanno innescato il tutto. Ora io mi chiedo se era in tribuna quando Abate ha falciato Juric. Quello è stato quello che ha innescato tutto, con un fallo assolutamente demenziale che ci può stare da parte, sì, ci può stare, che non ci dovrebbe stare, ma ci può stare come frustrazione da parte di un giocatore che in quel momento si vede retrocesso e gli piomba addosso un dramma sportivo, pur sempre sportivo, ma pur sempre dramma. Poi però la realtà non la si può stravolgere. Fino a quel momento tutto era filato liscio, con la tensione anche drammatica, se vogliamo, di una partita in cui una squadra si gioca la speranza di restare in Serie A e l'altra vede sparire la Champions League per il pareggio, ripeto, di Jorgensen laggiù, ma arrivato una frazione di secondo dopo che Milito aveva segnato il 3-2. Se fosse arrivato il pareggio di Jorgensen 5 minuti prima, scommettiamo che il Genoa avrebbe segnato il 3-2. Non dico che l'avrebbe segnato il Torino, ma insomma non è necessario su queste partite essere poi così didascalici su quello che poteva accadere o non poteva accadere. L'importante è non stravolgere la realtà. Se uno dice che è stato il Genoa a cominciare, beh, insomma, non tiene conto di un fallo di Abate su Juric da codice penale. Emilio da Modena, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini, volevo fare i complimenti per la sua pacatezza e professionalità. Anche se penso che una sia figlia dell'altra. Per quello che riguarda me, sono brevissimo. Io abito a Modena, sono tifoso del Bologna da 30 anni. Penso che ieri i cittadini, gli ultras del Bologna, avrebbero perso una grande occasione per dare adito a quel famoso detto che dice: Bologna, qua hanno perso veramente l'occasione. Credo però che questo non faccia parte solo degli sportivi, è un po' il clima di questa società che si respira. Forza di dire dai a quel cane, il cane viene inseguito. Credo che ci vorrebbe un po' di moderazione da parte di tutti nell'ambito della politica, del calcio. Chiedo scusa a nome di tutti i cittadini di Bologna per quello che è successo. Grazie Emilio. Milano, da Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, volevo fare un commento sul Milan, che vabbè, ce ne sono stati fatti tanti. Mm. Però le ultime due Champions, se non sbaglio, io so che Galliani è uno statistico e uno scaramantico, però le ultime due Champions vinte, se non sbaglio, il Milan è partito dai preliminari, sia quella con la Juve nel 2003 sia quella nel 2007, se non vado errato, forse bisognerebbe fare un controllo. Quindi voglio dire, non è un dramma, no? So che Galliani è molto scaramantico, e in quelli invece dove siamo partiti regolari poi abbiamo perso. Capito. Quindi potrebbe essere una magra consolazione, però tante volte bisogna guardare anche, non tutti i mali vengono per nuocere. A prescindere da questo, lei prima, l'ultima annotazione, ha fatto una cosa sul Barcellona che è senza giocatori molto importanti, però una grande Champions vinta dal Milan contro il Barcellona proprio ha giocato senza Varese e Costa Curta, quindi senza la coppia centrale. Senza la coppia centrale. È vero, quindi, è vero. Le partite a volte non vuol dire chi gioca, no? Vuol dire proprio lo spirito che si mette in campo. No, certamente. Poi la forza del Barcellona è a metà campo e da lì in avanti. Però, insomma, proprio perché il Barcellona gioca costantemente all'offensiva, il fatto di avere qualche sicurezza in più in protezione e non uno schieramento un po' improvvisato, insomma, sarebbe una rassicurazione diversa, proprio perché potresti fare il tuo gioco così disinvolto, così brillante, così offensivo, avendo qualche patema d'animo in meno su quello che può succedere dietro. Si è visto già col Chelsea che quella formula difensiva varata da Guardiola forse il massimo della vita proprio non era. Staremo a vedere. Simone da Padova rivaluta il pubblico di San Siro e la sua competenza calcistica. Beh, non che ce ne sia bisogno, però bravo Simone a cogliere e a sottolineare questo. C'è stato un momento altamente sportivo ieri a San Siro, scrive, quando nel secondo tempo Totti ha stoppato al volo un lancio di 40 metri con un gesto di eleganza cristallina e tutto lo stadio ha applaudito. Vedo Fabio Cantadori di là dal vetro che conferma e rivendica di aver applaudito lui stesso questa prodezza del, io insisto, attualmente giocatore di scuola italiana, tuttora uomo di maggior classe, anche se ormai siano al 50% delle sue possibilità atletiche, ma insomma il calcio, la tecnica e il talento e l'intuizione sua di Francesco Totti rimangono tuttora di un'altra categoria. Messaggio carino questo di Alberto Cicchero che dice: un tempo i giocatori fuori forma impiegavano diverse settimane per ritrovarla, Del Piero solo 7 giorni, fantastico Pinturicchio, scrive questo ascoltatore. Ripassiamo la storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. Il 25 maggio è per tradizione una data poco propizia alle squadre italiane in Europa. Inter, Juventus e Milan hanno infatti perso una finale di Coppa dei Campioni a testa. Il 25 maggio 1967 a Lisbona l'Inter di Herrera fallisce la conquista della sua terza coppa arrendendosi agli scozzesi del Celtic. Il 25 maggio dell'83 ad Atene la Juventus di Trapattoni si lascia sorprendere dall'Amburgo di Ernst Happel che passa in vantaggio dopo 9 minuti con il centrocampista Felix Magath. Ma il 25 maggio è stato fatale ed è storia recente anche al Milan di Ancelotti che nel 2005 a Istanbul perde la Champions ai rigori contro il Liverpool dopo essere stato sul 3-0 al termine del primo tempo. Però non è male questa data per le magnifiche sorti e progressive del calcio italiano. Bravo Nicola Filippone ad aver colto questa concomitanza di 3 finali addirittura perse su 3 in questa data. Nicola da Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. È sempre un piacere sentirla. Grazie. Per la sua competenza. Ascolti, io la chiamavo per esprimere quello che è la mia, chiamiamola, vergogna che ho avuto ieri assistendo alla partita del Torino allo stadio. Primo per lo spettacolo penoso offerto dai giocatori, essendo io tifoso del Toro, e poi soprattutto per lo spettacolo penoso offerto anche dai tifosi, perché a malincuore mi rammarica dire che quello che dicono i giocatori del Genoa purtroppo è vero. Cori beceri da parte anche della tribuna verso i giocatori del Torino per adottare atteggiamenti, diciamo, poco sportivi nei confronti dei giocatori del Genoa, ecco. La botte dal vino che ha, Nicola, io credo che credo che da anni ormai quella del Torino sia una china triste, che somiglia molto più a una deriva che a una china, e alla fine purtroppo i risultati si vedono. Grazie, andiamo a Cagliari da Luciano, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Forte e chiaro. Benissimo, io volevo parlare un po' di Mourinho, della partita che ho assistito io dopo tanto tempo, assistito a Cagliari-Inter. Secondo me l'Inter gioca male, ma gioca davvero male, cioè al di là dei campioni che fanno il gol, si inventano, però io ho visto una squadra che gioca due tocchi come il Cagliari, gioca veramente bene, potevano fare tanti gol anche il Cagliari, anche se dalle immagini non si vedeva, molte volte tantissime occasioni, ma poi alla fine però poi volevo sottolineare una cosa, Mourinho si è rifiutato di fare un'intervista ai locali, insomma, non è una bella cosa, non un bon ton questo. Al di là dei numeri percentuali, eccetera, ci ha fatto capire, insomma, che non è molto sportivo rifiutare, dopo che la società ha fatto di tutto per portarlo, fra l'altro. E poi non si può dire, ma tanto eravamo stanchi, è una partita che non ha senso, non si gioca. D'altronde Allegri, che gli ha risposto da buon toscano, dice, beh sì, anch'io al suo posto avrei fatto lo stesso. E lui invece ha detto, sì, io sarò al 100% del Cagliari e sarà il mio presidente, lasciando intendere che poi alla fine Cellino deciderà molto più. Niente, volevo dire solo questo, ma abbiamo davvero bisogno noi di tutta questa storia, dei percentuali, di tutto, una squadra che tutto sommato non gioca bene, questa è la realtà. Grazie. Luciano, lei però, adesso lei l'ha visto giocare il giorno 24 maggio, quando ha vinto il campionato da tempo, quando c'era un caldo estivo, quando gli obiettivi sono stati ampiamente centrati. Non ricordo fior di squadre scudettate negli ultimi anni, non proprio negli ultimissimi, ma appena poco prima, sbracare alla stessa maniera e andare a distribuire punti che pesavano per la classifica e per la salvezza allora, a differenza di oggi. Ricordo certe Juventus e certi Milan e certe salvezze miracolose ottenute da squadre che lucravano contro Juventus o Milan appena scudettate, parlo di non molti anni fa. In fondo ieri l'Inter ha indubbiamente sbracato a sua volta, ma lo ha fatto contro una squadra e in una partita in cui i punti non contavano per i terzi più o meno interessati, quindi già c'è questa differenza. Non credo che sia logico valutare il rendimento di una squadra o di un allenatore da una partita di fine stagione. Valutare invece certi comportamenti, certe scelte, certe pressioni, no, di questi ultimi giorni, il 99-99 o il 99,1, insomma tutte queste cose, vabbè, ma questo secondo me anche lì non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Chi voleva mettere sulla bilancia Mourinho non è che non ha avuto delle occasioni in precedenza e non poteva farlo per tempo, no? Adesso chi appunto finora non aveva scoperto fino in fondo il personaggio magari lo ha messo a fuoco un pochino meglio, grazie anche appunto a queste cose. Franco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, piacere di risentirla. Non so se ne avete parlato nel frattempo, perché io non ho potuto ascoltarla. In ogni caso volevo testimoniare, in quanto abbonato milanista da parecchi anni, che se avessimo capito qualcosa di quello che succedeva ieri probabilmente avremmo reagito diversamente per tutelare e ringraziare meglio il nostro capitano, per cui a fronte di 100-200 deficienti ce ne saranno 48.900 che comunque ieri hanno applaudito. No, certo, ma i numeri non sono quelli però, e non sono 100-200 secondo me, perché se solo contiamo tutti quelli che stanno dietro, a me non me ne importa nulla, sia ben chiaro, non è che mi metto a lanciare appelli di conteggio o di riconteggio, che poi sarebbero anche di moda, no? In altre frange, diciamo, della società. Se ci mettiamo però a contare tutti quelli che stavano dietro a quello striscione e che materialmente lo reggevano, che stavano negli immediati dintorni e che non mi sembravano particolarmente dissociati, io credo che fossero un po' più di 100-200, che dice? Esattamente, però comunque dico che il gestaccio, piuttosto che dal da dove ero io non si è capito molto. Ma no, questo gliene do atto, Franco, perché è la verità. Cioè, quando c'è una grande, quando c'è una grande massa e una grande festa, e soprattutto quando c'è una festa per Maldini, anche psicologicamente uno non è che sta attento a dire adesso sta a vedere che Maldini lo fischia, no? Perché è chiaro che se dice una roba del genere prima lo porta via al 118, se uno ieri avesse indovinato quello che sarebbe successo. Invece questi qua sono stati bravi, no? Nel loro genere, a fare questa sorpresina a Maldini, alla società e al mondo intero. E a quest'ora probabilmente saranno fieri di aver avuto il risalto mediatico che purtroppo, ripeto, era inevitabile dare, perché insieme al diritto di cronaca c'è anche il dovere di cronaca, e tra i doveri di cronaca c'è anche quello di rappresentare le prodezze dei deficienti, purtroppo, per sgradevole che sia. Grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani, buon pomeriggio.